9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 25 di agosto. Milano è ancora deserta, molto più deserta di quanto fosse l'ultima settimana di agosto dell'anno scorso. Dipenderà dal fatto che il 15 agosto è capitato di lunedì, vedrete perché questo tema ricorrerà nella nostra puntata, e ha consentito diverse pianificazioni delle vacanze. Dipenderà dal fatto che la gente di fronte alla crisi economica ha reagito con vacanze più lunghe invece che più brevi, ma chi lo può sapere. Ma è oggi proprio di questo punto particolare della manovra bis, quello delle festività, che ci occuperemo nel nostro esame quotidiano, in cui giorno dopo giorno tentiamo di capire le parti della manovra bis, sul quale è appena iniziato l'esame al Senato, per spiegarvele meglio, per illustrare meglio le conseguenze nella vostra vita concreta, nel vostro portafoglio, per chiedervi come la pensate e anche per capire come, se bisogna attendersi modifiche, visto che di modifiche in arrivo ce ne sono e parecchie, e probabilmente anche profonde, forse, almeno a giudicare dalle prime indiscrezioni di un confronto che attualmente è tutto interno alla maggioranza, perché la maggioranza ha problemi nel rapporto col PDL e la Lega, ha problemi nel rapporto tra un pezzo di PDL e l'altro, i cosiddetti dissidenti. Abbiamo sentito ieri Giorgio Straquadagno, coloro che dal PDL vogliono cancellare il cosiddetto contributo di solidarietà dai 90.000 euro lordi in su, e propongono invece di mettere mano con energia all'aumento dei tetti dell'età pensionabile, sia per i trattamenti di anzianità che di vecchiaia, e propongono più privatizzazioni. E poi c'è un problema di tensione anche all'interno del PDL tra l'ala degli amministratori locali, Formigoni e Alemanno, che picchiano durissimamente contro i tagli chiesti alle autonomie, e il resto del PDL e soprattutto il governo. Dalle indiscrezioni di oggi vediamo che si balla proprio su questi punti. C'è un'ipotesi di a cui lavorerebbe Alfano, che è stato incaricato da Berlusconi di coordinare i contatti sia all'interno del PDL, ha incontrato i dissidenti, sia nei confronti della Lega, di spiegare alla Lega che il contributo di solidarietà salta del tutto o quasi, o forse viene lasciato solo con il 5% oltre i 200.000 euro di reddito, e sul resto c'è trattativa aperta. Io non credo, mi pare di capire che davvero ci sia l'ipotesi di modifiche sui trattamenti di anzianità e di vecchiaia, tantomeno di vecchiaia. Non vogliono capirla che alzare il tetto per tutti a 67 anni e alzare la quota attualmente 96 per l'anzianità di 3 unità almeno in una botta è una questione di equità intergenerazionale, oltre che di equilibrio dei conti, e non la vogliono capire perché hanno paura del voto di queste tre classi di italiani, di questi 500.000 italiani che matureranno allo stato attuale della legislazione il loro diritto ad andare in pensione di anzianità nei prossimi anni, prima che si vota e quindi naturalmente per la paura di perdere quei voti spicchia tutti quanti. Questo è secondo me l'ostacolo oltre il quale il centrodestra non riesce ad andare. Comunque vedremo. Ciò che conta è che ieri la Francia ha varato la sua di manovra, intanto molto tronfio François Fillon, il primo ministro, ieri, che l'ha illustrata, ha spiegato i muscoli in televisione alle 20, dicendo che la Francia non è stata obbligata né travolta come l'Italia, come il Portogallo, come la Spagna e come la Grecia. Di fatto è vero invece che hanno dovuto sospendere le vacanze anche loro, per primi Sarkozy, perché dopo il downgrading, la perdita della AAA al debito federale americano, dal lunedì successivo gli spread francesi hanno cominciato a ballare, c'è stato il vertice franco-tedesco in cui la Francia si è uniformato al no agli Eurobond e alla Germania, e di conseguenza hanno dovuto varare una manovra di emergenza, perché la credibilità del loro rientro dall'oltre 6% di deficit sul PIL annuale che hanno ancora oggi non esisteva. Hanno varato manovre a mio giudizio ancora sottostimate, si tratta di una manovra di 12 miliardi di rientro, 1 miliardo quest'anno e 11 miliardi l'anno prossimo. Ma la cosa che vi voglio sottolineare è che troverete sui giornali che anche lì si è parlato di un contributo di solidarietà, avete letto nei giornali scorsi i ricchi manager francesi che si offrivano la gola al fisco e dicevano tassateci di più, che vergogna, vogliamo essere tassati di più, e naturalmente i pensosi commentatori italiani sempre pronti a sostenere che lo Stato non ha abbastanza e che bisogna dargli di più, oro alla patria, questo è ciò che dicono gli statalisti di tutti i colori, non mi interessa se siano di destra o di sinistra, dicevano guardate i ricchi manager francesi, che meraviglioso, spettacolare, limpido esempio di civiltà. Ecco sì, in effetti il provvedimento francese identifica anch'esso un contributo di solidarietà. Peccato che la soglia di reddito annuale venga identificata in 500.000 euro l'anno. 500.000, non i 90.000 del signor Tremonti castiga ricchi, che ricchi non sono. 500.000, e gli si chiede il 3% in più. Il 3%, non il 10% come si faceva oltre i 150.000 in Italia. Questo tanto per dire che la stampa identifica poi dei modelli virtuosi che mi fanno ridere, perché applicati all'Italia dimostrano solo la cialtronaggine dell'attuale governo, dei suoi sedicenti criteri di equità. Segnalo infine la Germania, perché i giornali tedeschi di stamattina sono prodighi di cattive notizie per i paesi poco virtuosi. Il presidente Christian Wolff ieri se n'è uscito con una dichiarazione pesantissima. Ha detto che gli acquisti da parte della BCE di titoli dell'euroarea sono da considerare illegali. Voi capite che il presidente tedesco che dice una cosa simile, sono da considerare illegali, e ha pregato il Bundestag, il Parlamento tedesco, di non farsi raggirare sulle diverse proposte di sostegno ai paesi poco virtuosi, poiché all'atto della ratifica del nuovo trattato il vincolo che il Bundestag ha dato è quello di nessun aiuto che non venga votato dal Parlamento. Allora, questo doppio richiamo fa capire che la Merkel non ha margini per dire sì né ora né mai agli Eurobond. Uno dei commentatori di punta, Frankfurter Allgemeine, ha scritto che è senza precedenti questo richiamo al governo, questo richiamo istituzionalissimo al governo tedesco, e quindi il problema del vincolo che il tedesco pone, che i tedeschi pongono agli altri paesi dell'euroarea, rimane fortissimo. In questo quadro oggi ci occupiamo di un punto che vi potrà sembrare secondario, e probabilmente lo è, quello delle festività. Perché nella manovra bis il governo ha deciso di diminuire le festività accorpandole nel fine settimana? Perché naturalmente lavorare di più significa innalzare la produttività complessiva. La produttività è fatta dal numero, oltre che dalle tecnologie e dalle diverse componenti che entrano come input nel lavoro, la produttività del capitale finanziario, del capitale fisico, capitale materiale, è fatta anche naturalmente dalla componente umana, cioè di quante persone lavorano, di quanto a lungo lavorano, di quanti minuti, quante ore al giorno, quanti giorni l'anno, quante settimane, quanti mesi, e quindi di qui il guadagno di qualche giorno di lavoro aggiuntivo significa un aumento di produttività complessivo del paese, per tentare almeno in questa componente di sanare il gap che ci ha aggravato il confronto con gli altri paesi. Cosa dice la manovra su questo? Innanzitutto abolisce qualcosa? No, come al solito non abolisce niente. Vi hanno detto che è tutto abolito? No, perché c'è scritto che si fa un decreto a novembre ogni anno dove si decide che cosa si abolisce e cosa no. Come sempre, quindi, è una manovra manifesto, per così dire. Ma prendendo sul serio e tentando di capire questo decreto atteso a questo punto per novembre che cosa potrebbe fare, il decreto che cosa dice? Dice che questo DPCM può incidere sulle date in cui ricorrono tre categorie di festività. Quali? Le festività introdotte con la legge dello Stato che non derivi da accordi con la Santa Sede. Poi la seconda categoria di festività, quindi quelle invece che derivano per comune accordo dopo il concordato, quelle non si toccano. Ecco. Poi invece si possono toccare le celebrazioni nazionali, le festività dei santi patroni. Allora, io ricordo che la prima categoria, cioè quelle di festività introdotte con legge dello Stato, complessivamente oggi in Italia sono tutte le domeniche, il primo giorno dell'anno, la Befana, il 25 aprile, il giorno di lunedì dopo Pasqua, Pasquetta, il 1 maggio festa del lavoro, il 2 giugno data di fondazione della Repubblica, poi c'è il 15 agosto l'assunzione della Vergine Maria, il giorno di ogni santi il 1 novembre, l'8 novembre cioè l'Immacolata Concezione, Natale il 25 dicembre e il 26 dicembre. Di queste festività introdotte con legge dello Stato, quelle introdotte in base ad accordi con la Santa Sede, e quindi accordi per i quali, dice il primo criterio del decreto, queste festività non possono essere soppresse nel decreto che ogni novembre dovrebbe procedere invece alla possibilità di diminuire il numero di festività, quelle che ricadono in questo accordo bilaterale con la Santa Sede sono appunto tutte le domeniche, il 1 gennaio, la Befana, il 15 agosto, il 1 novembre Tutti Santi, l'8 dicembre l'Immacolata Concezione, il 25 dicembre Natale, il 29 giugno Pietro e Paolo, solo per il Comune di Roma. Di conseguenza, se uno leva dal primo blocco questo secondo blocco, quali restano come festività sopprimibili? Resta il 25 aprile, anniversario della Liberazione, resta il lunedì di Pasquetta, che non sta nell'accordo con la Santa Sede, poi resta il 1 maggio, la festa del lavoro, il 2 giugno, la data di fondazione della Repubblica, e il 26 dicembre. Dopodiché, invece, per quello che attiene a le celebrazioni nazionali e le festività dei santi patroni, qui bisognerà chiarire il punto, perché attualmente, per esempio, le solennità civili, come quelle per la celebrazione del 4 ottobre per i patroni speciali d'Italia, che sarebbero San Francesco e Santa Caterina di Siena, come per esempio l'istituzione del giorno del ricordo, che c'è stata nel 2005 in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giulano-dalmata, cioè delle vicende terribili del confine orientale italiana, nonché la giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace. Tutte queste in realtà avvengono, sono solennità civili in una categoria per la quale si prevede che esse non determinino una riduzione di orario di lavoro negli uffici. Quindi da questo punto di vista ci sarebbe poco da chiarire. Voi capite che quindi, nella possibilità di accorpare il festeggiamento di queste giornate in maniera diversa da come si disponeva prima, e ciò che resta a disposizione è appunto ciò che ha fatto discutere, cioè il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno e poi Pasquetta il 26 dicembre. E la domanda che vi faccio è: siete d'accordo di sacrificare almeno un paio di questi che attualmente sono considerati, per via della storia italiana, giorni sacri? Perché il 25 aprile è ovvio, è una questione delicatissima da toccare. Il 1 maggio non ne parliamo, per via del sindacato. Il 2 giugno possiamo abolire l'unica festa per cui è nata la Repubblica, con un referendum degli italiani. Tra l'altro, quest'anno, per iniziativa del Quirinale, ci abbiamo aggiunto un festeggiamento particolare il 17 di marzo per celebrare l'unità d'Italia, e quindi anche quello a quel punto rientra in questo discorso. Bene, cerchiamo di capire come la pensate. Chiamate, e intanto però con gli ospiti di oggi tentiamo di capire come la pensano loro. Allora, abbiamo in questa prima parte della trasmissione, e ci seguiranno in tutto il corso della trasmissione, Fabio Pammolli, economista, che è presidente del CERM, uno dei centri studi che appunto studia competitività, regolazione e mercati, come dice il suo acronimo, e che è un centro studi, a mio giudizio, tra i più precisi, scientifici e rigorosi nell'esaminare le policies pubbliche, l'impostazione che i politici dovrebbero approfondire delle misure che vengono adottate. Vi sono dei settori come per esempio la sanità e come i fabbisogni standard e tutto il discorso tecnico di apprestamento dei coefficienti per il federalismo, su cui il CERM, per chi se ne occupa professionalmente, è insostituibile, e questo si deve grazie a Pammolli che lo guida, e ai tanti ricercatori anche dall'estero, che è stato capace in questo paese che butta via molte intelligenze, di attirare invece nelle sue sede. La grazie e buongiorno Pammolli. Buongiorno. Poi Emiliano Brancaccio, che insegna economia politica all'Università del Sannio e che avete imparato a conoscere per non solo per la stima che immodestamente gli porgo, ma perché ha un punto di vista dichiarato, un rigore altrettanto forte, ma con un punto di vista dichiarato, e quindi gli chiediamo anche a lui. Anzi, comincerei proprio dal professore Emiliano Brancaccio a chiedere la sua opinione intorno a che cosa significa lavorare uno o due giorni in più, quando i giorni, come abbiamo visto, indicati verso questi criteri sono questi particolari, se anche questo serve alla produttività oppure se pensa di no, e in generale altrimenti se pensa che siano sciocchezza perché i problemi veri siano altri. Professor Brancaccio. Buongiorno innanzitutto. Allora, io innanzitutto ho dei dubbi sul fatto che poi effettivamente si lavorerà in più. Mi spiego. La giustificazione del governo e del relatore in commissione lavoro è che noi appunto otterremmo un aumento di produttività, addirittura leggo dagli atti della commissione lavoro un aumento formidabile di produttività a seguito della, diciamo, abolizione poi fondamentalmente di feste così importanti come per esempio appunto il 25 aprile o il 1 maggio. Ecco, a me sembra francamente un'affermazione piuttosto ardimentosa quella del governo e del relatore in commissione lavoro, perché non a caso, diciamo, per quello che ho avuto modo di notare, non ci sono né dati né argomentazioni precise in base alle quali il governo sostiene che l'eliminazione di queste festività porti poi ad un aumento della produttività. E il fatto che non vi siano argomentazioni precise non mi meraviglia molto, perché quel legame in realtà è molto complicato e è molto più, diciamo, difficile da determinare di quanto non si immagini. La produttività del lavoro è una variabile complessa, è data dal grado di organizzazione e di centralizzazione dei capitali, dal grado di utilizzo della capacità produttiva, dal livello di conoscenze tecniche, cose un po' complicate di cui purtroppo in Italia discutiamo poco, ed è un problema questo, perché vedete, gli italiani, e questa è una cosa che andrebbe rimarcata, già lavorano molto più degli europei e dei lavoratori dei paesi OCSE. Gli italiani, stando a dati 2010 OCSE, hanno lavorato 1778 ore in un anno, esattamente quanto negli Stati Uniti e più di quanto si lavori in Germania, in Francia, in Spagna, persino un po' di più rispetto alla Gran Bretagna e al Giappone. E il problema è che nonostante questo maggiore numero di ore di lavoro, la nostra produttività nell'ultimo decennio è rimasta ferma, stagnante in 10 anni, mentre nella media europea è aumentata di ben 5 punti percentuali. Ora, questo è un gigantesco problema, enorme. Se il governo e il Parlamento pensano di affrontare questo problema gigantesco eliminando per esempio il 25 aprile e il 1 maggio, al di là, diciamo, della gravità, a mio avviso, come dire, etico-politica della decisione, ma non entro nel merito della gravità etico-politica della decisione, ecco, al di là di quella io spero che sia uno scherzetto tipicamente agostano, cioè uno di quegli scherzetti che si fanno sotto l'ombrellone. Avrebbero fatto più presto magari a dire che vorrebbero ridurre un pochino i costi delle imprese, ma questa modesta riduzione dei costi non ha un rilievo automatico sulla produttività. Io temo che molto probabilmente, anche a seguito delle, a mio avviso, sbagliate politiche restrittive che si stanno attuando in Italia e in Europa, a causa, lei lo faceva notare, soprattutto della miopia delle istituzioni politiche tedesche, a causa di queste politiche noi cadremo in recessione. E di conseguenza le mancate festività non si tradurranno in ore in più lavorate, ma si tradurranno in cassa integrazione, mobilità e licenziamenti. Quindi la produttività si ridurrà, non aumenterà. Allora, netto giudizio, io condivido la premessa da cui partiva Brancaccio, e cioè la questione della produttività è la una delle, proprio tra virgolette, non voglio dire là, ma una delle questioni fondamentali da affrontare nel nostro paese. E in effetti la produttività, come abbiamo tutti quelli, qualunque sia la scuola di appartenenza, non si può che essere d'accordo nel dire che dipende da una complessità di fattori che sono tutti quelli dei diversi input come vengono organizzati e gestiti nel processo produttivo. Da noi c'è una questione di taglia dimensionale delle imprese, di scarsa patrimonializzazione che quindi abbatte la tendenza all'innovazione e all'investimento per unità di prodotto, che è quello su cui c'è la competizione quando si è paesi avanzati per andare sui mercati nei paesi emergenti a più basso costo e così via. Avete sentito però il suo giudizio netto, questo è al massimo può essere considerato uno scherzo, perché non è di lì che c'è un apporto. Professor Pamolli, l'apporto, che innanzitutto è vero, negli atti nelle relazioni tecniche e negli atti del governo non è poi quantificato con precisione, che cosa viene da un giorno, due giorni, tre giorni lavorativi in più alla produttività nazionale, e qual è il suo giudizio più complessivo invece? Ma intanto di nuovo buongiorno. A me è venuto in mente un riferimento non economico, ma mi è venuto in mente di sulla vetta della Torre Antica passero solitario alla campagna cantando vai, nel senso che se di segnale si tratta, il segnale andrebbe inserito in un contesto di segnali con una direzione di marcia ben chiarita. Allora, se il problema è insistere in una fase di crisi sull'importanza del lavoro, sull'importanza della produttività, ben venga il segnale, un segnale che secondo alcune stime, peraltro non ancora rese pubbliche, quindi difficilmente commentabile in questo momento, andrebbe a incidere per lo 0,1% del PIL. Il segnale, ripeto, andrebbe inserito in un contesto di interventi volti a incrementare realmente la produttività. Allora, in quel contesto il passero non sarebbe più solitario e avrebbe una compagnia di canto. La compagnia di canto si intravede unicamente con la prosecuzione dell'enfasi giusta sulla revisione dei contratti, sulla contrattazione decentrata e sul legame tra salari e produttività. Non c'è invece il coro su altri ambiti. Allora, intanto non stiamo parlando in modo diretto di produttività. Noi stiamo parlando di ore lavorate durante l'anno, e le ore lavorate, o l'unità di lavoro, lo potremmo mettere in termini di numero di addetti, lo mettiamo in termini di ore lavorate a parità di addetti, ma in realtà stiamo parlando di un incremento dell'utilizzo del fattore lavoro durante l'anno. Quindi casomai stiamo parlando di un incremento del PIL, non stiamo parlando di un incremento di produttività in modo diretto, perché facciamo un riferimento passato, ricorderemo tutti la celebrazione del modello spagnolo. Il modello spagnolo, prima della metà degli anni 2000, è stato da autorevoli commentatori celebrato come le magnifiche sorti e progressive dell'economia a cui fare riferimento. Se si guardava all'epoca la crescita del PIL spagnolo, quindi la crescita del prodotto interno lordo spagnolo, si scopriva che quella crescita era guidata quasi integralmente dal numero delle unità di lavoro totali, quindi dal fattore quante persone erano occupate, ma non c'era un incremento della produttività. Quindi non c'era un incremento del PIL per ora lavorata, non c'era, in altre parole, un incremento legato al miglioramento della tecnologia derivante da una rispecializzazione settoriale, da una variazione della capacità di organizzare i fattori produttivi, eccetera. Quindi noi stiamo parlando in realtà di una misura che, come del resto anche qui, prima della metà degli anni 90, degli anni 2000, se ve lo ricordate, Fiorella Costoris sollevò una proposta analoga, no? Cioè di dare una spinta temporanea all'incremento dell'offerta aumentando il numero dei giorni lavorati durante l'anno e aumentando le ore lavorate. Ma questo non è di per sé un incremento della produttività. Certamente, probabilmente questo segnale riflette un disagio che tutti noi percepiamo, ma che è un disagio che ha due radici di fondo. La prima è la reale difficoltà della nostra industria e dei nostri servizi in particolare nell'erogare prestazioni di qualità e di elevata produttività. Abbiamo tutti la percezione di un sistema inefficiente, poi magari ci torneremo anche a seguito degli interventi degli ascoltatori. La seconda è che abbiamo tutti la percezione di un'estrema frammentazione in termini di distribuzione durante l'anno delle giornate lavorative. Ma questo disordine probabilmente è frutto di variabili ambientali e non è frutto di per sé dell'abolizione, non si risolve di per sé con l'abolizione della singola festività. Il segnale, a mio avviso, non è negativo, ma dove sono le misure di liberalizzazione, dove sono le misure che farebbero da contorno e anzi che renderebbero più forte questo segnale? In assenza di queste misure il segnale è una dichiarazione di principi che però rischia di rimanere abbastanza vuota. Specchietto per le allodole, lo chiamo io, che sono diventato un po' più brutale oramai nel giudicare le strategie seguite dal governo in carica dopo 17 anni di promesse non mantenute. Bisogna smascherarlo chi non dice la verità, bisogna essere molto più duri nel giudizio quando progressivamente la sua malattia nella rappresentazione della realtà, nel dire che non succede quello che succede, nel proporre poi come soluzioni non soluzioni, come in questo caso. Io sono diventato progressivamente più duro, penso della fine di un ciclo, penso che sia meglio che prima questo ciclo finisce meglio e non voglio dare l'opinione se non la mia, ma credo che quando si perde la capacità di essere incisivi come si è promesso a chiacchiere, beh, forse chiunque altro ha il diritto a questo punto di sperimentare, anche se i tempi saranno lunghi. Qui chiarimenti politici alle porte a breve non ci sono, a meno che i mercati appunto non riprendano la danza, ci travolgano, e questo io credo che sia molto probabile. Sentiamo prima della pubblicità rapidissimamente l'inizio dell'opinione degli ascoltatori. Franco, per esempio, Franco che ci chiama da Parma. Prego, Franco. Buongiorno. Per quanto riguarda l'estensione delle feste, cioè il taglio delle feste, c'è anche un altro aspetto, cioè l'estensione dell'orario d'apertura dei negozi 24 ore su 24, la Brambilla se ne compiace molto, la saluta come una grande conquista. Ecco, io credo che l'Italia compete nel mondo in stili di vita e qualità, cioè noi produciamo Panfili, produciamo Salvatore Ferragano, comunque produciamo prodotti di qualità. Il commerciante cinese che mangia la zuppa in negozio e che sta lì 24 ore, il cinesino, con tutto rispetto per quel lavoro di queste persone, il cinesino che dorme sotto la macchina da cucire, poi si sveglia e continua a cucire, se noi portiamo la competizione su quel piano lì, siamo destinati a soccombere, non abbiamo a carte da giocare, non è, giochiamo in casa loro, quindi noi portiamo in casa nostra una condizione che favorisce quel tipo di produzione, cioè la quantità, la produzione insonne, la mancanza di stili di vita, mentre la nostra produttività, la nostra creatività, cioè quello che ci ha portato fino a qui, è un modello opposto, noi andiamo a giocare in casa loro in questo modo. Grazie Franco, contrario quindi il primo intervento, ricordo che qui la liberalizzazione, anche quella petizio principi, però è avvenuta nella manovra di luglio esclusivamente per gli esercizi commerciali che stanno nei mall, cioè nei centri commerciali, nei luoghi ad alta affluenza turistica. Eccoci tornati, come vedrete i carichi pubblicitari, come ascoltate, è chiaro che questa parte dell'anno sono molto molto molto più brevi. Continuiamo con la vostra opinione su questa idea di sopprimere le festività. Per inciso, la mia opinione è che si tratta di un poco più che risibile tentativo di abbattere di una frazione del 300% dello zero, di un trecentesimo, scusatemi, del complessivo annuale della componente costo con lavoro alle imprese che esportano, perché di questo si tratta in realtà. Se ci pensate, per chi lavora per il mercato interno che è afflitto da molti anni per ohimè la dinamica punitiva del reddito disponibile da destinare ai consumi per i milioni di italiani a qualifica bassa e media, soprattutto nel settore privato, peggio che di quello pubblico. Questo è il problema da cui deriva l'assegnazione dei consumi interni. Per chi lavora per il mercato interno non è certo uno o due giorni di lavoro in più di produzione che gli cambia il risultato. Diverso è il fatto per quei settori invece che sono tornati al 2007 come tiraggio dell'export, soprattutto nell'export manifatturiero. Ce ne sono diversi in cui è avvenuto in questi anni, sono diversi settori grazie ai quali noi facciamo questo 0,7-0,8 di crescita annuale, perché danno l'80% della crescita potenziale a breve. Ecco, per quei settori lì avere un maggior margine di ottimizzazione dell'utilizzo dei tempi nel ciclo produttivo può essere significativo, ma stiamo parlando appunto di un trecentesimo l'anno, ecco, una roba non tale da giustificare tutto il rumore che in Italia può nascere se davvero qualcuno tocca il 25 aprile. Parliamoci chiaro. Sentiamo come la pensa Angelo, che chiamo da Cremona. Prego Angelo. Pronto, buongiorno. Dica, mi sa che c'è un eco e che deve abbassare la radio. È un paio d'anni che sono qua in Italia e volevo dire che è inutile che lavoriamo, possiamo lavorare anche 365 giorni, però la gente, se non compra la gente, a noi produciamo per che cosa? Per chi? I magazzini sono pieni, io mi faccio autotrasportatore, comunque lo vedo in giro, è tutto pieno zeppo, però la gente non ha con 1.000-1.200 euro di stipendio. Non riesce a comprare, non riesce ad andare avanti, non riesce a spendere i soldi già abbastanza per mangiare e mantenere la famiglia e basta. Grazie Angelo, perché l'avevo invitata ad abbassare, c'era l'eco della radio. In qualche misura ho anticipato la sua considerazione, perché in effetti è più una misura a chi ha domanda che tira e che è in grado di soddisfare dall'estero che per chi lavora per il mercato interno. Come lei giustamente ricordava, c'è un problema di disponibilità di reddito da destinare ai consumi. Andrea che ci chiama invece da Treviso. Prego Andrea, come la pensa? Sì, buongiorno. Mi avete proprio anticipato, nel senso che non si ricava nulla a lavorare di più e produrre cose che dopo stanno lì ferme, insomma, merci che non vengono. Piuttosto, se il signor Brunetta riuscisse a recuperare il servizio, che ne so, presso l'USL, perché ci tocca sempre andare a fare analisi, visite, cose dai privati convenzionati, lì ci sarebbe molto molto da recuperare, ma evidentemente ci sono degli interessi diversi, insomma, a sviluppare la sanità e il servizio privato. Va bene, grazie Andrea. 3-0 per il partito di chi non è d'accordo, per così dire. Sentiamo Mariano dalla provincia di Milano. Prego Mariano. Buongiorno, ho apprezzato molto l'intervento dell'esperto di prima che spiegava in che cosa consistesse la vera produttività del lavoro industriale. Poi mi ricollego all'ascoltatore precedente e ho apprezzato anche il suo intervento. Inoltre volevo sottolineare che per chi lavora nel turismo come me sarebbe una bella mazzata in busta paga, perché insomma le festività vengono pagate molto di più, e inoltre sarebbe anche un danno al turismo, perché a Pasquetta ad esempio si lavora tantissimo, anche più che a Ferragosto molto spesso. Ecco, lei ha sollevato, grazie Mariano, questo punto, che è esattamente quello che adesso avremmo sviluppato. A volerlo fare apposta, una concatenazione logica di questo tipo, non ci si riesce mai. E invece la bellezza della Radio 24, su cui gli ascoltatori appena chiamano, ce lo consente. L'impatto che un ponte in meno, due ponti in meno possono avere su questo delicato settore, perché noi siamo poi uno dei paesi che attira più flussi al mondo, meglio dovremmo fare e potremmo fare rispetto ai colpi che ci hanno portato paesi come la Spagna, e al miglioramento, alla qualificazione dell'offerta integrata che ha saputo fare la Francia. Ma insomma il turismo nella bilancia anche commerciale e finanziaria del nostro paese è un settore fenomenalmente importante. E qual è l'impatto invece di misure come queste nel storia del turismo? Abbiamo con noi Renzo Iorio, che è appunto presidente di Federturismo. Abbiamo visto bilanci molto allarmati, impatti addirittura misurabili, miliardi e miliardi di euro in meno per il turismo. Come stanno le cose dal vostro punto di vista? Buongiorno e grazie innanzitutto. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Ma stanno che effettivamente tagliando i ponti o riducendo appunto questi ponti, certamente noi perdiamo diciamo dai 4 ai 6 milioni, ai 6 miliardi di euro di fatturato dell'industria turistica, poi è statistica a seconda di come cascano, diciamo, nel calendario queste giornate. Che mi fa dire che non sia in prima battuta anche un ottimo affare per l'erario, perché queste storie qui valgono dai 500 ai 700 milioni di gettito tra IVA e imposte indirette. Per cui mi sembra francamente un provvedimento che non fa senso già dal punto di vista proprio puramente economico, senza entrare quindi nel merito, diciamo, dell'importanza e del significato che anche le date hanno nelle festività. Altro tema sarebbe invece, però è chiaramente un tema di progetto, non un tema di intervento spot fatto in 5 minuti prima di una scadenza per la manovra, quello di ripensare al calendario generale dell'attività del paese, quindi dove anche spostare con un concetto di bank holiday al lunedì o al venerdì queste festività avrebbe un senso, che è ripensare al calendario scolastico, al calendario dell'attività della pubblica amministrazione, dove effettivamente, come fanno gran parte dei paesi europei, c'è una destagionalizzazione generale, e per cui un provvedimento di questo genere fa senso. Così semplicemente spostare queste tre festività o toglierle addirittura, secondo me è un danno gravissimo per l'industria del turismo, ma anche un danno per l'erario, ecco. Posso chiedere un'opinione al cittadino, al di là delle responsabilità che ha il Federturismo, il presidente? Lei si aspetta davvero che a novembre, una volta che, come al solito, anche su questa misura misuriamo, mi perdoni chi è in ascolto, il fatto che i politici sparano dei segnali senza avere in mano analisi, visto che non ci sono nelle relazioni di accompagnamento tecniche, su ciò che davvero si determina, se ciò che essi dicono si attua. Poi si danno un intervallo di tempo, non a caso, perché mica decidono, ma dicono poi decideremo a novembre. La mia opinione è che anche su questo non faremo nulla. Chiedo invece a Iorio, per i contatti che avete avuto in questi giorni dopo la manovra, perché poi avete protestato, avete tentato giustamente di capire come stanno le cose, ma vi aspettate davvero che avvenga qualche cosa? Oppure, al netto di quello che deve dire, ovviamente per rappresentare gli interessi dei suoi associati, al netto teme davvero che qualcosa possa avvenire? Io francamente vedo, e la cosa mi stupisce da imprenditore e da cittadino, che un settore come il turismo, che rappresenta più del 10% del PIL, sia sistematicamente diciamo sacrificato e immolato senza uno straccio di conto. Voglio dire, per far passare una norma politica come quella del federalismo, il governo ha dato in pasto la tassa di soggiorno, che è una sciagura totale. Da cittadino mi sembra veramente in quest'ultimo periodo che ci siano solamente degli annunci e dei ballon d'essai buttati lì, vediamo cosa succede e poi dopo decideremo. Sono davvero, anche il balletto sull'IVA mi sembra altrettanto un tema sul quale non c'è veramente un progetto, e questo mi inquieta da cittadino e anche da chi ha comunque una responsabilità di portare avanti un'azienda con più di un migliaio di lavoratori. Anche qui spostiamo 3 giorni e poi vediamo, senza avere i conti, senza cosa fare. Le province, diciamo delle robe, mettendo delle cifre forse più legate a quanto è la dimensione del proprio collegio elettorale piuttosto che a un vero conto di quanto uno potrebbe risparmiare, però intanto ne parliamo del 2013, eccetera. Mi sembra qualcosa che un governo, mi aspetterei da cittadino, abbia la visione di un progetto paese, quantomeno a 2 o 3 anni. Mi sembra che oggi governi il progetto di arrivare alla fiducia tra 15 giorni e poi vedremo. Perché tanto, se questa è una risposta. Tanto per chiosare quello che ha detto il presidente Iori, un conto è aumentare la pressione sulle imposte indirette rispetto a un contestuale sgravio delle aliquote marginali, medie e anche alla base della piramide dei redditi sui redditi delle persone fisiche, e cioè nell'ambito di una manovra ordinamentale che complessivamente riequilibra gli squilibri ormai evidenti di questo sistema tributario che abbiamo. Altro conto è invece inseguire le necessità di fare cassa alzando un'aliquota qua, mettendo un'imposta là, soprattutto quando per 17 anni si è detto il contrario. Ieri, nell'esame della Commissione, la cosiddetta Robin Tax, un'altra rapina di questo governo per fare cassa, riservata alle aziende energetiche, a seconda della taglia fino al 10% aggiuntivo, ieri in Commissione ha detto no, ma però salviamo il fotovoltaico e un core di energie alternative, ed estendiamo la Robin Tax invece a tutti i settori regolati, a tutti i concessionari, a TLC, gli autostrade, eccetera, quelli che sono stati appena legnati a questo governo, che si dice amico delle imprese a torto, perché le bastona solo, che sono gli stessi soggetti interessati da quella assassina modifica degli ammortamenti fatta da ignoranti asini somari nel luglio scorso. Mi sentite usare termini molto duri, e vedo che molti degli ascoltatori mandano sms dicendo che sono diventato un propagandista della sinistra. Non capite, ragazzi, che io mi ostino a stare sul merito delle cose. Se la sinistra esplose sotto Prodi, divisa, e ci aumentò le tasse con Padoa-Schioppa, io lo criticai duramente. Chi invece sosteneva di essere il contrario, ma fa come, uguale e peggio, io lo critico altrettanto duramente. Poi forse se qualcuno che fa questo mestiere usa un criterio che è quello delle cose invece che delle appartenenze, perché io le appartenenze non ne ho, forse diamo una mano a tutti a capire qualche cosa. Se continuiamo a dividerci in quello che fanno gli amici che io sostengo è buono, quello che fanno quelli che io avverso è cattivo, a prescindere dal merito, non capisco perché dovrebbe esserci la stampa e gli osservatori, perché diventa un torneo di calcio. La politica italiana è già malata di questo, molta stampa è malata di questo, io ho tanti difetti e non sono migliore di nessuno, ma questo difetto non ce lo voglio avere. Altre risposte spot, tanti sms che arrivano. No, io non sto difendendo il fatto che bisogna lavorare poco. Intanto è vero che nella graduatoria comparata, come ricordava il professor Brancaccio, internazionale, noi lavoriamo comunque più della media dei paesi avanzati, molto più della Francia per esempio, ed è vero che poi la componente numero ore è una delle componenti del prodotto complessivo, non è da quello poi che si misura la produttività. Il nostro problema non è quante ore lavoriamo, il problema è un altro nel nostro paese. Detto questo, tutti i paesi avanzati hanno una tendenza a diminuire il numero di ore lavorate molto molto seria in questi ultimi 20-25 anni, e a questa tendenza si è sovrapposta l'aumento dei contributi sul lavoro per ora lavorata. Questo per esempio è un argomento sul quale riflettere, perché i paesi che hanno per esempio alzato l'IVA nella crisi lo hanno fatto per inseguire gettito, lo hanno fatto alzando da 2 punti a 3 punti, Spagna, Gran Bretagna, Germania hanno fatto così, non c'è stato il temuto effetto sui consumi, ma è vero invece che esiste un bel blocco di altri paesi maggioritari nell'Unione Europea, i paesi nordici, scandinavi e anche dell'est europeo che hanno adottato questo stesso modello, che hanno l'aliquota standard IVA più elevata. Ma perché? Ce l'hanno più elevata per una ragione ordinamentale, quella di cui adesso lamentava l'assenza il presidente Iorio, cioè hanno scelto di avere un'aliquota standard su imposta sul valore aggiunto più elevata, molto più elevata della nostra, perché programmaticamente tengono più bassi i contributi sul lavoro per dare una mano all'occupazione. Ecco, di questo secondo me c'è bisogno nel nostro paese. Queste sono le misure per dare una mano a chi vuole fare crescita e occupazione produttiva. Il nostro cuneo contributivo, ciò che lo Stato rapina sul lavoro impiegato, inventandosi anche imposte che non esistono in nessun paese avanzato come l'IRAP, è una roba che uccide la crescita, deprime i redditi, soprattutto naturalmente i redditi delle qualifiche più basse del lavoro. Per quello poi in Italia non riusciamo ad andare avanti bene. Sentiamo come la pensa Sergio, che ci chiama da Modena. Prego Sergio. Buongiorno dottor Giannino e bentornato. Per una volta non sono d'accordo con lei sul discorso della soppressione dei giorni delle festività nazionali. Io ho lavorato per alcuni decenni, per 25 anni, in un grosso gruppo industriale del nord Italia e non ho avuto alcuna difficoltà a lavorare il 1 gennaio, il 1 maggio, il 25 aprile, nessunissima difficoltà. Anzi, i nostri clienti apprezzavano che c'era qualcuno che li seguiva anche in questi giorni particolari. Io veramente non capisco perché non si possa festeggiare il 2 giugno e il 5 giugno. Che differenza fa? O il 25 aprile e il 27 aprile. Si aumenta solo la produttività. Io dico che più si lavora più si produce, o no? Sergio, io come sa mi sono immolato sull'altare di chi chiedeva al Quirinale di non darci un giorno di festività in più per i 150 anni, perché all'inizio ho avuto un certo ruolo nel convincere la stessa Confindustria Nazionale, mal me ne è incolto perché poi me ne hanno presentato il conto, nel proporre che quel giorno si celebrasse lavorando e sui posti di lavoro con 10 minuti, 15 minuti in cui tutti insieme lavorando si ricordasse l'Unità d'Italia. Stati travolti, questa è la verità, Sergio. Allora, siccome siamo stati travolti perché siamo minoritari, la mia impressione è che pensare di fare un grande torneo sull'abolizione del 25 aprile, ci siamo capiti su cosa vuol dire in Italia dividersi su quello, vero? Cioè, è per questo che dico che nel decreto di novembre non ci sarà mai questa cosa qua. Rispetto a ciò che ne deriva, io da minoritario preferisco concentrarmi su qualche battaglia più importante come apporto complessivo. Sulla filosofia generale la penso come lei, però imporla quando si è così minoritari mi pare un po' velleitario, cioè uno di quei segnali che serve a dire non si possono fare le cose perché esistono i cattivi che sono maggioritari, e questo non mi sembra mai un gran metodo. Antonio da Trieste, come la pensa Antonio? Sì, buongiorno. Allora, io ritengo che anch'io che questo provvedimento in merito ai giorni lavorativi siano dei pannicelli caldi. Io ritengo personalmente che uno dei sistemi, ma vorrei chiedere anche un parere ai suoi ospiti, potrebbe essere questo. Siccome ritengo che comunque in questo momento per affrontare questa crisi tagliare le spese è sicuramente una cosa importante, ma una, come diceva giustamente lei, delle cose più importanti da fare è aumentare la produttività. La produttività secondo me attualmente si può aumentare solo in un modo, premiando gli imprenditori virtuosi che reinvestono negli imprenditori professionisti, tutti quelli, diciamo la categoria dei lavoratori autonomi che reinveste quel poco di utile che riesce a guadagnare nell'impresa, premiandoli come? O con dei crediti d'imposta oppure con una diminuzione anche dei contributi sul lavoro. Però diminuzione non significa diminuzione finanziaria, cioè io non dico non li paghi. Li paghi lo stesso, ma li dai al tuo lavoratore dipendente, in modo che questo poi continui a consumare e quindi l'economia non tracrolli anche per una mancanza di consumo, che non è una cosa che a me piace tantissimo, ma è così, diciamo, per dire il consumo in sé per sé, o meglio, il consumo sfrenato, ecco, mettiamolo in questi termini. D'altro canto invece gli imprenditori, chiamiamoli viziosi, cioè quelli che usano gli utili per comprarsi la barca, tanto per fare un esempio, ma non ce l'ho con quelli che si comprano la barca, era un esempio tanto per intendere, che usano gli utili a livello personale, verranno comunque puniti, tra virgolette, con la maggiorazione dell'IRPEF, perché chiaramente ritengo che quello rientri nel loro diciamo, nella sfera personale della, e quindi non, però secondo me sia il discorso dell'IVA che il discorso di qualunque altra imposta che possa colpire le imprese fa male agli imprenditori, e dovrebbero capirlo anche i lavoratori dipendenti più magari che ascoltano di più, che sanno di più di queste cose, fa male anche a loro e quindi fa male al paese. Antonio, io non l'ho interrotta perché ciò che mi premeva era che esprimesse ovviamente nel complesso la filosofia più che i particolari tecnici degli interventi che ha illustrato violano un tale numero di leggi vigenti che mi sembrerebbero assai difficilmente attuabili, perché lei capisce che gli incentivi e i disincentivi secondo criteri di vizio e di virtù aprono enormi problemi, perché non sono automatici, vanno stabiliti, poi vanno valutati discrezionalmente, quindi sarebbe una confusione assoluta. Io devo fermarmi perché io credevo di avere altri 3 minuti di fronte, invece tra 15 secondi devo entrare uno spot evidentemente aggiuntivo rispetto a quello che sapevo, e in conclusione ancora una volta diffido gli ascoltatori a credere Radio 24, l'Italia di Sinistra hanno comprato anche Giannino, ma possibile che non guardiate il merito delle cose? Poi giustamente pensatela come volete. Io temo che anche questo articolo, come tanti altri della manovra, a novembre non partorirà quello che promette. È fatto solo per fare vedere che si vorrebbe compiere un passo in avanti, ma ci sono i cattivi che non vogliono lavorare in Italia. Questa impostazione di promesse e segnali discontinui e senza numeri alla mano non ne posso veramente più, anche perché faccio la scommessa che a quel punto nei contratti di lavoro, che sono quelli che disciplinano poi il costo vero alle imprese delle festività, se lo Stato decidesse di annullarle, lavorare quel giorno comporterebbe una revisione del costo di quel giorno di lavoro nei contratti di lavoro, e le imprese a quel punto, per non avere casino infernale con i sindacati, dovrebbero valutarle di più, come puntualmente avviene spesso. Quindi misure di questo tipo, mi spiegate a cosa servono? Invece la Robin Tax, quella, come siete buoni a farla, i famosi amici delle imprese al governo, che ridere, anzi che pena! Appuntamento a domani, Linea Generale Radio.